Quando oceani e tuoni urlano, io insieme a te volerò. Padre, tu sovrasti ogni diluvio, io resterò saldo in te, mio Dio. Saldo in te.